Il numero dei contagiati resta tutto sommato stabile, intorno ai 1300, cresce lievemente. Ancora oggi quello dei ricoverati in terapia intensiva sono 120, ma il segnale migliore di queste ore sembra arrivare dall'Europa, che fa sapere le prime dosi del vaccino, se tutto va bene, potrebbero arrivare già in novembre, che dobbiamo dire, speriamo che sia così. Attenzione in parte concentrata ancora su Silvio Berlusconi, che fa sapere di stare abbastanza bene, ma da ieri anche sulle sue aziende. Una sentenza della Corte europea rende Mediaset sostanzialmente scalabile dai francesi e complica la partita della rete unica per la fibra ottica. C'è anche un po' di politica, se volete, con le tensioni nel Movimento 5 Stelle, che paiono moltiplicarsi all'ombra di un'ipotesi di voto sulla piattaforma Rousseau che potrebbe riportare alla leadership Luigi Di Maio. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Le 6:30 minuti e 15 secondi è venerdì 4 settembre. Come va oggi, Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. In redazione anche Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Siamo sempre qua. Oh, non ve l'ho messo nell'introduzione del nostro piccolo prologo, ma ieri praticamente si è parlato, meno sui social, per quel che vale, quasi solo di questa storia del ponte sullo stretto. Cosa è successo, per chi se la fosse persa, però la trova anche un po' sui giornali. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli ha scritto che c'è ormai questo progetto per il ponte sullo stretto, che prevede ovviamente una parte ferroviaria, una parte stradale, ha detto, e anche una parte ciclabile. Apriti cielo, improvvisamente tutti a dire pensiamo alle biciclette sul ponte sullo stretto, ma di cosa stiamo ragionando? Oggi anche ci scherza su anche Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, dicendo si provvede a ingentilire il quadro con l'aggiunta della pista ciclabile per consentire a Greta Thunberg di andare finalmente a scuola in un liceo di Messina, e poi tutte le battute e anche il fuoco amico del Partito Democratico. Io sinceramente ve lo posso dire, non ci trovo nulla di scandaloso. Cioè, fai un ponte di 3,5 km, quant'è? Ci metti sopra anche una ciclabile, che problema c'è? Scusate, ma il ponte della libertà, quello sulla laguna di Venezia, non ce l'ha la ciclabile che hanno finito di inaugurarla non più tardi di giugno scorso? E allora? Se uno vuole fare da Reggio a Messina, meglio, da Reggio a Messina in bicicletta, farà da Reggio a Messina in bicicletta, ma perché no? Boh. Certe volte non le capisco le cose, però c'è un po' di ironia, ci sta. Silvio Berlusconi si diceva: sto abbastanza bene. Mi è capitato anche questo, però non ho più febbre, non ho più dolori e voglio rassicurarvi, sto abbastanza bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili anche alla campagna elettorale in corso. Un po' il nasino tappato si sente dell'ex cavaliere Salvini. L'ho chiamato, sta bene. Ieri ho chiamato Berlusconi, ci ho parlato lungamente, gli ho fatto gli auguri in bocca al lupo, e atonico, e ha finito la telefonata di lavoro e stava cominciando un'altra telefonata di lavoro. Io metto la mascherina, ovunque sia obbligatorio metterla, ma vorrei che finisse questo clima di terrore, perché altrimenti l'economia italiana, il turismo, l'impresa, anche il commercio, la vita. E quindi ci mette insieme il clima di terrore. Ma chi è l'untore? Chi è l'untore? Ieri si diceva Briatore, lui negava. Oggi circola sui giornali l'ipotesi Barbara Berlusconi è stata lei. Ma non si saprà mai. Dice Licia Ronzulli, giustamente, avrà stretto troppe mani. Magari ha stretto troppe mani, lui non si risparmia, come dicevo. Il presidente Berlusconi è una persona talmente generosa che magari in qualche, con qualche persona, magari in Sardegna, non so, però non si può dire chi è stato. Io trovo assurdo anche questo accostamento a Flavio Briatore. Ha stretto troppe mani. Beh, se ha stretto le mani è stato imprudente, eh. È stato imprudente perché non si fa, ci si tocca il gomito, lo sapete perfettamente. Le biciclette sul ponte, chiede un ascoltatore, e il vento, e vabbè, se uno decide di sfidare il vento, sfiderà il vento, ma abbiate pazienza, ma sono anni che si cerca di stimolare il, no, il muoversi in bicicletta, che uno sia d'accordo oppure no, e quindi lo fai anche sul ponte, sullo stretto, ma che problema c'è, ma che problema c'è? Brusaferro sui casi di Covid. Questo aumento è avvenuto in particolare nella seconda metà di agosto e adesso stiamo ovviamente monitorizzando questo fenomeno. Ciononostante il nostro paese è ancora tra i paesi a livello europeo tra quelli che controlla meglio questo tipo di diffusione dell'infezione, e questo è un dato molto importante che credo ci richiami alla necessità proprio di rispettare le misure che già tutti conosciamo. Oddio, quanto è brutto monitorizzando, eh? È veramente atroce se lo faccia dire dottor Brusaferro. Inascoltabile, inascoltabile. Poi magari ci risentiamo qualche altra voce su Covid, però ci sono tutte le tensioni nel Movimento 5 Stelle che la ministra della pubblica amministrazione Dadone definisce dibattiti frizzanti. Non ne vedo una questione di crisi sul fronte della tenuta della maggioranza, anche perché ieri la fiducia è stata votata con numeri larghi. Chiaro che all'interno del nostro movimento ci sono dei dibattiti frizzanti, ma questo lo sanno da sempre, non l'abbiamo mai nascosti. Ma sì, sì, avete ragione, tutti quelli che ci scrivono al 349-238-6666, mi raccomando, WhatsApp, WhatsApp audio se volete, le vostre voci su tutto, anche su questo ponte ciclabile, se vi va, dicono, ma Silvio non era asintomatico? Sì, Zangrillo ci aveva detto che era asintomatico, lui stesso aveva fatto sapere che era asintomatico, invece qualche sintomo ce l'ha avuto, la febbre, avete sentito il naso tappato. E vabbè, vabbè, l'altro punto chiaramente, cari miei, è quello su cui tra l'altro apre il Sole 24 Ore, apre la Repubblica, è questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, che è una sentenza importante, ha un'aria complessa, come sempre le cose veramente importanti hanno un'aria complicata, e là è il punto qual è? Il punto è che c'era la legge Gasparri che impediva sostanzialmente un incrocio tra una proprietà eccessiva, per così dire, di reti di telecomunicazioni e di assetti televisivi, messa un po' brutalmente, mi scuserete. Ebbene, la Corte di Giustizia Europea ha detto che quella parte della norma è irregolare, quindi Vivendi, l'azienda francese, può detenere sia la quota alta che ha di Telecom Italia, sia la quota alta che ha di Mediaset, e Mediaset diventa scalabile. A questo punto Mediaset, che ha le televisioni, dice vabbè, allora io voglio entrare nella fibra, nella rete unica. Il tutto si mescola col fatto che Mediaset è di Berlusconi, quindi l'incrocio di tutto questo genera una certa frizzantezza, eh? Cara Marianna Aprile, come stai? Bentornata, bentornata. Buongiorno. Ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Hai passato una buona estate, sì? Ottima. Voi? Ottima, bene, bene. Noi sì. Tutto sommato sì, anche discretamente lunga, gli ascoltatori ci hanno dato addosso per questa storia. Quindi diciamo, ma siete matti, 5 settimane di ferie, è una vergogna, ma è così, le aziende, lo smaltimento delle ferie, mille altre cose, il fatto che ci svegliamo tutto l'anno alle 4 del mattino, stiamo qua per farvi compagnia e quindi un po' di riposo ce la prendiamo. Come la vedi, Marianna? Lo sto chiedendo un po' a tutti i colleghi che stanno intervenendo in questi giorni, no? Qua da noi. Come la vedi? Come la vedi? Dura Conte o non dura? Perché ci siamo lasciati così e ricominciamo così. In realtà la resistenza del Presidente del Consiglio pare pazzesca, è un muro di gomma. Sì, infatti verrebbe da rispondere che Conte dura il governo, boh, cioè il punto credo sia quello, che una serie di ragioni di buonsenso e di rapporti anche, se vogliamo, con l'Europa, con gli impegni presi in sedi europee su recovery plan, sui progetti da presentare, sui soldi da incassare, cambiare il frontman, a meno che insomma, il cambio non sia fatto con un frontman di levatura ampiamente superiore e internazionalmente riconosciuta, non avrebbe molto senso. Forse avrebbe più senso, in base ai risultati del referendum e delle europee, immaginare dei rimpasti, dei cambi di pesi all'interno della maggioranza che sostiene il governo, che lo sostiene anche in maniera piuttosto traballante ultimamente. Sì, sì, e quindi no, Conte direi che a naso dura. A naso dura. E continuerà a stupirci, perché insomma è arrivato 4-4 due anni fa, come ci sembrava, no? La testa di legno dei veri, no? Dei veri burattinai. Sì. Di Di Maio e Salvini, oppure di Casaleggio, oppure... Se li ha mangiati entrambi, adesso si mangia pure Zingaretti, poi vedremo cos'altro si mangia. Però insomma è un uomo decisamente pieno di sorprese. Decisamente. Il Libero, tra l'altro, oggi dice... Conte, il titolo di apertura, è Conte si fa il proprio partito. Oh, questa è una cosa che non porta fortuna. Certo, è una figura diversa da quella di Mario Monti, però è anche una figura diversa da quella di Matteo Renzi, però... Ma io temo però non sia vero. Cioè, sì, alla fine che, no. A parte averlo smentito, ma questo in genere conta quello che conta. Le dichiarazioni hanno la durata dell'asse, però... non avrebbe senso, proprio per quello che dicevamo prima, cioè stanno facendo tutto gli altri, non ha bisogno di fondare un partito proprio per mantenere salda la leadership del governo e risultare comunque sempre il terminale di un equilibrio, per quanto precario, ma l'unico possibile. Quindi non sarebbe uno scivolone troppo grossolano, che diciamo non tornerebbe con il personaggio che abbiamo conosciuto in questi due anni. Sì, sì, supportato ovviamente in parte dalla situazione sanitaria e dalle preoccupazioni, esatto, per la situazione sanitaria. Abbiamo sentito prima Brusaferro sull'aumento dei casi. Brusaferro torna anche su quella che, come dicevamo nei giorni scorsi, è la grande prova, più che del governo, forse addirittura del paese, che è la riapertura il 14 settembre delle scuole. Come ci si muoverà, come si andrà avanti, come si partirà, cosa succederà quando ci sarà un caso all'interno di una scuola? Brusaferro. Quello che impariamo dai paesi che hanno già aperto le scuole è che ci possono essere casi singoli o anche casi di scuole che vengono chiuse. L'esempio più recente è noto a tutti, credo sia la Germania, ma questo vuol dire chiudere per un periodo e vuol dire poi riprendere l'attività, non vuol dire interrompere l'attività scolastica. Quindi il concetto è: dobbiamo imparare a convivere con questo virus avendo le misure in atto. Ancora il professor Crisanti sul numero di tamponi necessario. Nei giorni scorsi, lo ricorderete, abbiamo sentito il viceministro Pierpaolo Sileri, il quale ci ha detto sì, si parla di 300.000, 400.000 tamponi, e però se ne parla nei momenti di picco. Non è una cosa fissa, non è che di fisso faremo 300.000, 400.000 tamponi al giorno. Crisanti è convinto invece che è quella la cifra che serve. Ce ne dovrebbero bastare dai 300.000 ai 400.000 al giorno. Aprono le scuole, sono circa 8 milioni e mezzo di bambini. Ogni ragazzo che ha la febbre immediatamente scatta l'isolamento, il tampone per il ragazzo che ha la febbre, la classe, gli insegnanti, i bidelli, i genitori dei bambini. Ogni persona a sua volta genera la necessità di fare un 100-150 tamponi. Così è secondo appunto Crisanti. Marianna, tutto questo si mescola con l'attesa per la giornata di domani nel vedere quante persone raccoglierà la manifestazione dei negazionisti. Abbiamo visto quello che è successo a Berlino nel fine settimana scorso, con questo mondo estremamente variegato che si è raccolto intorno appunto ai negazionisti del Covid, dall'estrema destra arrivando a com'era quello chef vegano cospirazionista che poi è stato arrestato in piazza a Berlino, un personaggio abbastanza noto evidentemente in Germania. Però c'è un tema che emerge, e devo dirti la verità, Marianna, emerge anche un po' dai nostri ascoltatori. Ogni tanto qualcuno ci scrive e dice: oh, state facendo il terrorismo, il Covid non esiste. Però c'è questa specie di movimento sta un po' montando. Cioè, vedo nel giro di conoscenze, amicizie, contatti di ciascuno di noi una quota di negazionisti o di riduzionisti, mettiamola così, del problema c'è ed è innegabile. Non so se sia in crescita, non so se sia abbastanza forte da riempire una piazza, se non in modo strumentale da parte di chi organizza la piazza stessa. Però c'è, il tema c'è, è a mio avviso una reazione, una doppia motivazione. La prima è quella complottista, che ormai non ne veniamo fuori, cioè su qualsiasi cosa abbiamo la necessità di sentirci un po' più furbi dell'universo e capire veramente come stanno le cose. La seconda motivazione forse è più comprensibile ed è una sorta di rimbalzo psicologico, cioè è un modo forse anche per metabolizzare in maniera sbagliata, perché appunto amplifica il rischio da adesso in poi di metabolizzare una forzatura come la limitazione della libertà personale che abbiamo rispettato ma comunque subito per nobili ragioni, ma subito, e che gioco forza va in qualche modo espulsa da ciascuno di noi. Quindi negare il problema è un modo grossolano per superare il problema passato, però non tende a far minimizzare il fatto che è il modo migliore per creare un problema futuro. E viene, sì, certo, e viene in parte cavalcato dalla politica. Ti faccio un esempio: l'ascoltatore, io non concordo con l'ascoltatore che ci scrive questo, però ve lo leggo per darvi la misura. I negazionisti del Covid non esistono, esiste gente che vuole difendere la libertà da chi la vuole sacrificare per un'influenza. Però i morti che abbiamo contato a marzo o aprile non sono morti da influenza, caro ascoltatore, cioè sono numeri molto più alti. La violenza di questo virus l'abbiamo raccontata più di una volta, gli effetti imprevisti di questo virus, tra cui per esempio le embolie, li abbiamo raccontati più di una volta, e insomma mi sembra... Ma poi sai cosa, se ho un secondo, la cosa che forse anche noi come stampa dovremmo raccontare di più, perché potrebbe aiutare a convincere queste persone che il problema è reale, sono gli strascichi che lascia questa influenza, perché uno può pure dire: vabbè, ma sono morti 35.000, adesso si muore di meno, ma come stanno quelli che guariscono dal Covid? Perché di questo si parla molto poco, ma i danni che lascia questa malattia al tutto il corpo, non ai polmoni, ma ai reni, al fegato, eccetera, sono poco raccontati, ma impattano tantissimo, non solo sulla vita delle persone ovviamente, ma sul sistema sanitario, sui costi del sistema sanitario. Cioè, non vogliamo farlo per la fiducia nella scienza, ok, facciamolo per la fiducia nei conti. Se sottovalutiamo il problema, ci costa di più anche in prospettiva. Facciamolo per quello. Sì, sicuramente. Nel frattempo li ho tirati fuori un po' di ascoltatori che stanno scrivendo, perché insomma, fanno parte di quel mondo, vogliamo chiamarlo scettico, per essere gentili, traffico. Mattino. Ditelo, ci scrive un ascoltatore, ditelo a mio suocero che dopo 4 mesi ha ancora problemi a respirare. Diteglielo al suocero del nostro ascoltatore, che non esiste, che è un'influenza, Ditelo. Ditelo ai bergamaschi, a tutte quelle persone che tra Bergamo e Brescia hanno perso un parente, un amico. Ditelo a quelli che l'hanno avuto e se lo sono fatto in casa. Ditelo a quelli che sono finiti con la respirazione assistita in terapia intensiva. Diteglielo. Diteglielo che non esiste. Gli strascichi sono degli strascichi anche che hanno a che fare con il nostro fisico, ma hanno anche a che fare con la nostra vita. E la nostra vita comprende anche le aule di giustizia. Aule di giustizia che si sono sostanzialmente fermate dal lockdown in avanti e che in gran parte, soprattutto dal lato penale, non hanno ancora ripreso, non si sono ancora riaperte. Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Quanto c'è di fermo nel penale? La situazione che ci siamo lasciati alle spalle a fine luglio è veramente drammatica, è una paralisi sostanzialmente totale. Noi calcoliamo che non si siano celebrati più del 20% dei processi che ordinariamente si sarebbero dovuti celebrare. Ora siamo alla ripresa. Questa prima settimana, secondo a disposizione del Consiglio Superiore della Magistratura, doveva essere e deve essere dedicata solo alle prime urgenze, ma vedremo quindi da lunedì, ma insomma, i segnali sono di una situazione. Riusciamo a portare uno, due esempi, Cagliazza, di cosa vuol dire questo per una persona in attesa di un processo o una famiglia, una persona in attesa di giustizia? Tu hai un'udienza, mettiamo, avevi un'udienza prevista nel giugno del 20 o nel maggio del 2020, e dove vai a finire? Già da, diciamo, nel periodo aprile-maggio 2020 abbiamo avuto rinvii, naturalmente diciamo anche a febbraio-marzo 2021, quindi qui a Roma, ma in tutta Italia abbiamo avuto questo, rinvii anche di 7 mesi, 8 mesi. Il problema non è nemmeno di quanti mesi, il problema è che qui si sta accumulando un ritardo e un carico di ritardi, diciamo, enorme in un sistema già collassato. Sì. Cioè, noi eravamo già nella normalità, come è noto, sì, in una condizione di grandissimo ritardo. Sì, un ascoltatore la mette giù brutale, un po' meno elegante di come la mettiamo giù noi, Cagliazza, e dice: tanto già faceva schifo prima la giustizia, e quindi non è che cambia, non è che cambia, un po' brutale, naturalmente. I nostri ascoltatori, sì, a volte sono così. Però sì, capisco, ma dico sì, va alla sostanza del problema, è così. Cioè, è uno sfascio che non si spiega, però, vogliamo dirlo questo. Cioè, non si spiega, perché non si comprende perché stiamo lavorando, il paese sta lavorando, addirittura la ripresa, eppure con tante contraddizioni, alla ripresa della scuola, per dire, hanno ripreso i negozi, hanno ripreso le attività, diciamo, più o meno ordinariamente, ma la giurisdizione no. Quale può essere la giustificazione? La cosa allarmante, quindi, è che si è perso il senso del servizio essenziale della giustizia. Evidentemente la giustizia non è considerato, quale invece è, un servizio essenziale, e su di esso si continua a ragionare. Sorprende anche, devo dire, che non si è sentita mezza parola del ministro per quanto riguarda la ripresa. È vero che formalmente il ministro, accogliendo una nostra richiesta, aveva addirittura anticipato alla fine di giugno, dalla fine di luglio, no, il termine della situazione di emergenza. Cioè, disse il ministro: ma hanno ragione gli avvocati penalisti, insomma, adesso dal 1 luglio tutto riprende normalmente. Se ci sono dei problemi, bisogna motivare il rinvio. E cosa è successo? Non è accaduto nulla, non si è modificato una virgola da questo provvedimento. Ma che ruolo gioca, Cagliazza, al di là del ruolo che gioca la politica, che ruolo giocano gli uffici dei tribunali in questa cosa questo qua? Questo è il punto, perché la situazione di paralisi è in larga parte determinata dal mancato rientro nei posti di lavoro di chi è da mesi in smart working, quindi diciamo i cancellieri, segretari, il personale degli uffici giudiziari, che ha questa particolarità, che è in uno smart working che in realtà non esiste, perché dipendenti degli uffici giudiziari non sono facoltizzati, per motivi di naturalmente di sicurezza, ad accedere dai propri terminali, ai propri computer privati, dalle proprie case, diciamo, ai registri, notizie di reato, ai registri delle sentenze, eccetera. Quindi c'è uno smart working. Quindi brutale, anche qua brutalità, Cagliazza, cioè fanno smart working ma in realtà non stanno facendo nulla. Stanno a casa, ma non voglio criminalizzare nessuno. Non possono fare nulla. Quello che allarma, io ho letto delle dichiarazioni veramente strabilianti di qualche sindacalista, anche nei nostri confronti come avvocati penalisti delle Camere Penali, dobbiamo prendere atto che c'è una resistenza, diciamo, anche no, dei sindacati ad un rientro ordinario, per l'amor di Dio, la tutela della salute, figuriamoci se non teniamo anche alla nostra. Io non ho nessuna voglia di prendermi in tribunale il coronavirus, non è che io, diciamo, il mio diritto alla salute, diciamo, vale meno di quello di un cancelliere o di un ufficiale giudiziario, però dobbiamo prendere atto che con questa situazione occorre convivere, che se il paese in tutti gli altri comparti riprende le attività, se si va nelle fabbriche, se si va nei negozi, se si va sui mezzi pubblici, perché non si deve tornare normalmente anche nei tribunali? Questa è la nostra battaglia in questo momento. Qualcuno ci spieghi perché la giurisdizione pretende una tutela. Qualcuno vi accusa, Cagliazza, abbiamo ancora 30 secondi. Qualcuno vi accusa, dice, sta dicendo una mezza verità. La colpa è anche agli avvocati che non hanno voluto il processo a distanza. Cosa meno male. Ma questo, i cittadini ci devono essere grati per i prossimi anni, perché il processo penale, il videogioco del processo penale sul computer è una cosa che infatti solo in Italia abbiamo pensato di poterci inventare e che per fortuna è stato, diciamo, sgominato come progetto. È un'idea assurda, il processo penale non è esportabile su un computer, perché io se controesamino un test, se devo sentire l'imputato, io lo devo avere davanti a me, devo capire come sta reagendo, se sta dicendo la verità. Io e il giudice e il pubblico ministero, è un rito che non è, è un rito fisico, è un rito non riducibile, solamente gli ignoranti possono pensare che si possa fare il videogioco del processo penale. Che è un po' quello che abbiamo detto anche per la scuola, non si può fare tutto a distanza. Grazie Gian Domenico Cagliazza per essere stato con noi, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Marianna Aprile, giornalista. Marianna, ciao, alla prossima, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Se volete dire la vostra su tutto quello che vi pare, su quello di cui abbiamo parlato, c'è il 349-238-6666 per gli WhatsApp audio, SMS, la pagina Facebook di 24 Mattino, il nostro account Instagram, Twitter, tutto quello che volete, anche 24mattino@radio24.it. GR, a tra poco. Buongiorno, buongiorno Simone, sembra un piacere sentirti la mattina.